rincorso l'entrata, fottuto del cazzo dopato di Carl Lewis, con in gola il petto con impressi su Rosario e Cruz. Inseguo storie d'espediente do nemici in blu, teso, sudo, rabbia, brucio bile per plus flus. Da Genova connesso a Samba, America del Sud, dalla favela vicola rimangia couscous. Strade di terra e merda, polvere la sua guerra, baracche, glocks, locos, 12 case e zuzus. Ratto da sottomondo, malo che ero di Quebrada, con la fame addosso giorno dopo giorno tripicata. Mi son già mosso in mezzo a bossole di quadrata, uomini comuni e boss che muovono ordini in strada. Qui non c'è spazio per rimorso, mordo per la plata, avere troppo cuore, stare a rischio di una pugnalata. Una parola e passi anni dietro ad una grata, divisa rigata, sbarre chiave. Sono abituato a correre da quando c'ho le gambe, già da piccola a competere col mondo che è più grande. Tra scazzi di famiglia, bottiglie di metadone, mio padre in casa che piange, mia madre fuori che muore. E poi, questa è la corsa della vita come Senna, mi sbiaccico sul muro finché il mezzo non si ferma. Investo stronzi in ogni cazzo di città in cui mi ritrovo, appena finito di farlo, voglia di farlo di nuovo. E quindi corro tra steiere, puttane sì ma fuori da ogni branco, fuori controllo intanto, prova a trovarmi stanco. Cresciuto con le palle di chi ha fotta per qualcosa che non ha, corro sui carboni ardenti sopra i figli di papà. Corri forte quando scappi dai pensieri, quando pensi che a domani non ci arrivi ed è già ieri. Quando non riesci a smettere di correre e a fermarti, ricordati che il mondo gira solo per schiacciarti. Peligro, soccorro, cuidado, avanza, corre, corre sino shadow, a ti ti alcanza. Perde la speranza, confetta MC flow con eleganza, che tu chiede papi ora banda se ti arrastra. Rima pesada come una NASA, e che passa, ora nadie me alcanza. Corro come il negro ball, si tu quieres yo te doy, porque hoy soy el bad boy. Soy, soy como Voldemort, llego balla 250, calibro un magno, shadow representa. Envidioso no, no, no me mientan, soy lo que soy y nadie me supera. O sea, soy el mejor, yo no busco pretexto, soy humilde, tú envidioso y yo muy honesto. De resto, el impacto, la explosión, soy más que tú, ahora pon atención.